yourself further. Ogni naipe è la capilla una mia nave. Ogni naipe è la capilla una mia nave. Dove mi tu pisci alla sate. Un dettaglio caro dai masciate. Sabe, um detalhe caro na minha chave.